Buonasera a tutti, Radio Cerrano Web torna con Schegge Impazzite. La sigla che ho scelto mesi fa è quella di Narada Michael Walden con la splendida chitarra di Corrado Rustici e naturalmente The Dance of Life, che è il titolo di questa sigla, vuole essere anche un po' un viatico per quanto riguarda le argomentazioni che caratterizzano questo programma. E cioè cercheremo di spaziare, lo abbiamo già fatto, abbiamo toccato una serie di argomenti, una serie di tematiche sia musicali sia culturali in generale. Questa sera toccheremo un tasto, è il caso di dirlo, toccheremo un tasto importante, toccheremo un tasto che spesso e volentieri viene in qualche modo, non dico sminuito, ma viene in qualche modo non compreso appieno e non viene riconosciuto il giusto merito a chi fa questo lavoro. E stiamo parlando del famoso pianista di Piano Bar. Ne abbiamo uno questa sera che in zona, insomma, è un po' un boss della situazione ed è il nostro Enzo Della Sciucca. Buonasera. Sentite che voce, ma allora già da come ha detto buonasera si capisce che lui con i microfoni c'ha una certa dimestichezza. E avete visto come ha impostato la voce, come ha abbassato il tono, è tutto mestiere, vero? È tutto mestiere. Salutiamo Pierpaolo che ci saluta. Salutiamo, sì. Buonasera Pierpaolo, ti ringrazio del saluto, saluta sia te che me. Ho visto, lo ringraziamo. Questo perché siamo in diretta su Facebook, cioè sulla nostra pagina Facebook, radiocerrano.web, però insomma ci potete ascoltare se non siete fan di Facebook, ci potete ascoltare su una serie di piattaforme musicali come radiofoniche, come TuneIn, Listen to My Radio, tutta una serie di piattaforme, io dimentico sempre tutte, anche insomma. Se questa sera ci scontriamo sugli ascolti. Sì, ma martedì abbiamo fatto la stessa cosa con Vincenzo e non dico che abbiamo vinto, ma quasi, però noi insomma dalla parte nostra avevamo BB King eccetera. Sì, lui ricorda il fatto, e guarda, sta cosa mi dà lo spunto per la prima domanda. Sì, ma allora uno come te, e cioè Enzo Della Sciucca, è un musicista, è un signore che insomma ha girato un po' tutti i locali, che fa tantissime serate, che allieta insomma una specie di jukebox vivente, perché c'è un repertorio sconfinato, vero? Abbastanza. Quanti pezzi hai in repertorio? Non lo so, adesso mi fai una domanda. No, su per giù, dai. Sono tantissimi, adesso mi trovo impreparato perché ne sono veramente tanti. Non ti sei preparato? Mi trovo impreparato, ma sono tantissimi. No, però ecco, la domanda che ti volevo fare, ma uno come te, sì, è in qualche modo è obbligato ad ascoltare, a vedere Sanremo? Sì, però non è che tu sai benissimo che tutte le canzoni di Sanremo, poi quelle che rimangono sono sempre pochissime. Pochissime, poi una, due, e poi alla fine riesci a prendere, a captare qualcosa che rimane, perché noi del Piano Bar, a parte che a me piace molto fare la ricerca di brani anche un po' sconosciuti per riproporli, no? Per essere un po'. Quindi la scelta non è diciamo obbligata, sì, verso i brani più può essere, celebri. Non può essere, sì. E quindi dicevo, questa cosa di Sanremo è un, quindi insomma passiamo un po', si passa sempre da lì, soprattutto in Italia. Sì. E adesso mi viene un'altra, questa domanda te la faccio dopo, perché adesso diamo un po' di spazio alla musica e sì, così poi. Questo naturalmente è un brano inciso da Enzo Della Sciucca, ripeto, ed è un brano che tu hai riarrangiato, vero? Sì, abbiamo parlato di Piano Bar, si può intendere solo pianista come hai detto tu di Piano Bar, però io in questi anni mi sono anche appassionato al sax. Uh-huh. pensavo di non riuscire a farci niente col sax perché lo vedevo veramente uno strumento ostico, abbastanza complesso, vedevo tutti quei tasti, le cose. Poi invece mi sono comprato un sax, sì, ho iniziato a studiarlo e alla fine qualcosa ci ho, ma vedi, ho realizzato anche col sax. Polistrumentista. Sì. Buon ascolto. Grazie. Credo che noi rappresentiamo un po', ma io credo insieme a tutte le radio e alle radio alternative, che chiamiamolo così, le radio alternative, anche perché c'era una radio in cui io ho lavorato, insomma, mi sono divertito per alcune settimane, che si chiamava Radio Alternativa, stiamo parlando di due secoli fa. Dicevo che vedendo un po' i saluti qui e chi ci sta seguendo tramite Facebook, rappresentiamo una sorta di alternativa a Sanremo che sta per iniziare, però, perché vedo che Sanremo non è ancora iniziato, stanno facendo la pubblicità di Auricchio, quindi insomma. E quindi. Si parlava sempre di Sanremo, giustamente diceva Enzo Della Sciucca, il nostro ospite, è l'ospite di Schegge Impazzite qui a Radio Cirrano, ed è un signore che vive di musica, nel senso che in tutti i sensi, cioè lui si guadagna da vivere attraverso la musica, ed è anche... Ci provo. No, che ci può, ormai dopo 30 anni o ci sei riuscito oppure... È difficile. Quanto? Difficile, abbastanza. Quali sono i problemi? Devi districarti in tante realtà, non è che puoi essere un musicista a un senso solo, nel senso che per poterci veramente realizzare quello che sia sufficiente, devi saperti sintonizzare su diverse realtà. Perché io dicevo che la figura del pianista di piano bar e del pianista in genere, che allieta, insomma, che è una figura importantissima, perché comunque è la figura di un personaggio poliedrico che deve, come diceva Enzo, ci sono tante situazioni che veramente hai tante generazioni davanti, quindi tu devi cercare di non è che puoi avere una scaletta fissa, come spesso anche accade da certe persone che ascolto, capito? Devi stare lì e chiaramente cercare di trovare la canzone giusta per le persone che per il pubblico che hai davanti. Questo non è semplicissimo. E poi devi cercare anche di riproporre qualche volta qualcosa che per far conoscere qualcosa che magari a quella persona di una generazione magari non l'avrebbe mai ascoltata, no? E sei tu, capito, che certe volte riesci a trasmettere qualcosa che, ma soprattutto che io, come dicevo, abbiamo detto prima, lavorando in tanti alberghi, alla fine quello che devi fare è devi cercare di trasmettere qualcosa che i nostri turisti, tornando a casa, riportano poi, no? E questo lo fai attraverso arrangiamenti diversi, come ci riesci? Ma io, a me piace molto riproporre le cose un po' a modo mio. E questo mi sembra giusto. E quindi cercare di riarrangiare ogni canzone secondo anche l'atmosfera che vuoi trasmettere con quella canzone, no? Sì. Con quel brano. Perché si può arrangiare anche un brano degli U2 a piano bar. Pink Floyd lo puoi fare anche al piano bar, è sempre l'artista che propone. Disse una volta Antonacci una cosa che mi rimane: se la melodia è bella ci puoi fare quello che vuoi. Sì, in effetti è così. Se non è bella poi dipende... la melodia puoi fare l'arrangiamento che vuoi, alla fine è difficile riottenere. Dipende dall'estro. Sì. Comunque Enzo, oltre a essere un bravissimo pianista, un bravissimo pianista e arrangiatore e musicista, io sta cosa del piano bar, da quando De Gregori dedicò quella canzone a Venditti, e lo fece perché avevano litigato, sta storia ormai è questa nota, non lo sapevo. Mi sfugge questa cosa. Ah, vedi? Bravo. Allora, sono un pianista di piano. Allora, questo brano qui fu praticamente composto da De Gregori dopo la rottura che i due, cioè De Gregori e Venditti, ebbero. I due lavoravano insieme, iniziarono, sì, insieme al Folk Studio, eccetera, eccetera. Poi i due si divisero e in qualche modo De Gregori, attraverso questo brano, rimproverava a Venditti di essere diventato un po' troppo commerciale. Pensa che i due si sono riconciliati qualche 6-7 anni fa. Io mi ricordo un programma televisivo che li riportò insieme a parlare insieme, perché non si erano più parlati. Grandi amici, poi diventarono grandi nemici. Non so se poi Venditti rispose con un altro brano. Insomma, lui diceva: sono un pianista di piano bar, poche note sulle dita, eccetera, eccetera. E da quel giorno, un po' nell'ambito soprattutto cantautorale, questa canzone, no, è sinonimo di uno che sì, vabbè, suona, però non è che sì, abbia questa grande creatività. Invece io sono dell'opinione che la cosa non sia proprio così. Ma io dicevo che Enzo, oltre a essere... Anche perché quando riproponi non è la perfezione di quello che fai, è quello che riesci a dare... A trasmettere, l'interpretazione, esatto. Ma sì, questa è fondamentale, questa cosa, sì. In tutta la musica. Ci deve stare anche qualcosa di... Sì, ma in tutta la musica, credo, perché altrimenti sarebbe facilissimo riproporre un brano di Schubert, di Beethoven, sta lì, sta scritto, sì. Ma poi... Ma io ho avuto anche delle critiche dai, racconta. Sì, che, ma tu le fai troppo a modo tuo, le canzoni, no? Ho detto, ma una volta un signore dice, ma qua ci manca, magari sì, sull'originale manca quello strumento, ma perché lo vedi? Ho detto, c'è quello strumento, no. E queste sono le critiche. Però dopo ci sono tantissime altre persone invece che apprezzano che tu effettivamente stai mettendo qualcosa di tuo. Vabbè, c'è da dire una cosa, no? C'è da dire, io... Allora, io non sono un grosso fan dei gruppi, di questi gruppi adesso che ripropongono cover, eccetera. Non sono un grosso fan perché comunque magari ci sono pezzi a cui uno è affezionato e io ci sono, ad esempio io conosco dei pezzi, i miei brani, come dire, preferiti, conosco ogni nota, ogni anche glissatura, ogni sì, sì, qualsiasi cosa, e quindi magari se uno te lo ripropone a suo modo... Non sono un grosso... Le cover di solito sono quelle band che riescono ad avvicinarsi più possibile, il più possibile all'originale, sì, anche con la voce, sì, cercano di imitare più possibile, sì, forse, anzi quasi sicuramente spesso si parte da lì, no? Dalla voce, sì, dalla voce che è molto simile all'originale, poi dicono, ah, allora facciamo una cover band, però ecco, poi c'è... Poi la senti comunque la professionalità sotto, nel senso che, come dici tu, c'è sempre qualcosa di tuo, giustamente il musicista vuole mettere qualcosa di suo e credo che questo sia, sì, anche fondamentale, altrimenti non è che duri 30 anni, credo. E qua dobbiamo andare avanti, dobbiamo durare ancora. Sì, hai ragione. Ci dobbiamo essere ancora, abbiamo tante cose ancora da, ma tu ci sarai, da dare. No, ti volevo chiedere, ma quando è che hai iniziato e come hai iniziato? Beh, da ragazzino a suonare la chitarra, ma veramente prima si studiava un po' la fisarmonica, ma a me non piaceva proprio. Poi siamo andati con la chitarra e poi suonando con i complessini del mio paese, con gli amici, mi appassionai un po' del pianoforte e mi comprai un pianoforte e cominciai anche col pianoforte. Ed è così, una sera con un gruppo ci serviva il famoso tastierista che non c'era, io qualcosa sapevo fare e comunque c'è un altro, abbiamo risolto la serata. C'è un altro tastierista e un cantante che ci stanno ascoltando e guardando, c'è Carlo Bizzarri che guarda la trasmissione. Vedo anche Marcello. C'è Centorelli. Marcello. Che salutiamo, che salutiamo gli amici. C'ha un vocione, sì, sì, Marcello, sì, c'ha sì, una sì, voce sì, splendida. Sì, sì. Splendida. Poi salutiamo tutti, Enrica, Pasquale, io non dico i cognomi, insomma, per una questione di privacy, ma loro si capisce chi sono, Emanuele, Piero Figliani, che e l'ho detto anche il cognome, vabbè, Piero è un aficionados che ci fa i complimenti, vedi Enzo, eri preoccupato di Sanremo, vedi quanta gente. No, io ero preoccupato per Sanremo. non l'avevi capito. Si devono preoccupare, infatti Favino e la Hunziker, vedi che faccia, guarda che faccia da preoccupati che c'hanno. Anche il grande Vince Daddy Butterfly ci sta ascoltando. Vince, mi raccomando, fai il bravo, E quindi niente, ancora un po' di musica, ancora musica che viene dal tuo CD, se sempre non sbaglio. Come si chiama? Sax. Come si chiama il CD? Intensity 2000. È un sax da poltrona, da viaggio. Ma di che anno è il e questo è nel 2001. Hai cominciato già nel 2001 a incidere il CD. Quanti ne hai incisi? 2 per il momento. Abbiamo altre cose nel cassetto che piano piano. bello, piaciuta. Sì, sì. Questo era un omaggio al nostro Elvis. Grandissimo Elvis. È una canzone, è un brano veramente, veramente, veramente bello. No, stasera bellissima melodia. Siamo pieni famosa di in tutto siamo il mondo. Pieni di musicisti su Facebook. Guarda, c'è anche il maestro Concezio che ci saluta. Un caro saluto ad Enzo, bravo musicista che si distingue anche per la sua modestia. Grazie Concezio. Hai visto? Abbiamo fatto il botto questa sera qui a Radio Cerrano con Enzo Della Sciucca. Stiamo raccontando la sua storia, la storia di un pianista, musicista che si è fatto da solo, che continua a navigare anche in maniera non, come dire, non facilissima in mezzo a queste onde musicali e anche a tanta voglia anche di far divertire, di appassionare, emozionare, è vero, sono questi i sentimenti che cerchi di far passare. Sì, sì. Allora, io avevo una domanda che mi stava frullando, sì. E cioè, tu c'hai un... Una delle tante. Sì, una delle tante. No, tu hai un pubblico abbastanza variegato, perché tu suoni in diversi hotel, mi dicevi in diversi ti confronti con diverse generazioni, ma ti confronti anche con diversi paesi, vero? Cioè, sì. Hai notato delle differenze tra il pubblico italiano e quello straniero? Quello straniero è quello che noto, senza togliere, insomma, siamo italiani pure noi, però loro sanno apprezzare un po' di più. Sì, eh? Sì, mi dispiace dirlo, ma è così. Questa è sanno apprezzare cosa... un po' di più. Hanno, secondo me, non è che possiamo generalizzare, quello io parliamo sempre della mia esperienza, dell'attenzione che noto quando io seguo i brani, insomma. Ti ascoltano molto più volentieri, apprezzano molto più volentieri, è una parte l'applauso molto più facilmente. Infatti i periodi che noi abbiamo più tedeschi, più del nord Europa, che sono all'inizio stagione e fine stagione, è il periodo migliore per il piano bar. Sicuramente il periodo migliore, quindi gli italiani sono un po' più distratti. Però bisogna vedere anche le situazioni in cui stai lavorando, bisogna vedere che tipo di serata è, se ci sono delle serate in cui si trasforma proprio una cena in albergo proprio a lume di candele, è un tipo di serata, insomma. Poi ci sono anche le serate in cui si fa musica da ballo, quindi tu intrattieni il pubblico, i turisti, appena finisce la cena che scendono magari in giardino, e devi fare lì, secondo come abbiamo detto prima, le generazioni, il pubblico che hai, magari la serata si trasforma in, quindi, come da, diciamo, balera, noi, da balera, quindi, se, devi essere anche un po' poliedrico come, a districarti anche, certo, in quel genere lì, come diciamo dalle nostre parti, visto il soldato gli appendi la sciabola, vero? bravissimo. Allora, io ti ringrazio Marcello, è troppo buono. Marcello, ci fai complimenti per la trasmissione, e poi Antonio ti saluta, è un carissimo amico, un bravo fisarmonicista, stimatissimo. Vedi, stasera stiamo facendo il pieno di musicisti, ci stanno ritrovando di proprio musicisti. A noi fa piacere, ma io lo sapevo che questa era una scheggia buona, quella di questa sera, perché io credo che sono questi un piacere aver condiviso alcuni anni insieme. Avete suonato insieme più qualche anno, sì. Sì, bene, un bene. Gruppo, abbiamo fatto le piazze, le balere, facevamo un genere da ballo. Benissimo. No, io a proposito di questo, quindi tu, in sostanza, succede questo, no? Noi spesso magari andiamo, che ne so, ai matrimoni, andiamo in queste occasioni spesso un po' distratti, no? Dall'evento, da quello che sta succedendo, non facciamo caso a quello che invece il musicista sta proponendo, no? Quindi bravissimo. C'è il momento in cui devi essere... Ma è anche il musicista che deve cercare di capire i momenti in cui non devi andare oltre, esatto, ti devi, esatto, mantenere, oppure poi, esatto. Ma che delle volte succede che c'è un, come si dice, un volume sempre parallelo alla giornata, no? Alla giornata, quindi attento al microfono. Sì, sì, ho capito. Che ci sta qua dietro Carlo che ci sta prendendo a botte prima. E allora invece devi stare, sembra che il musicista sia lì così, ma devi stare attento se ci riesci a tanti momenti, cose, particolari, certo, a tante cose, sì. È vero, insomma, io perché a me piace la musica, io spesso invece faccio l'operazione opposta, cioè nel senso, se vado in un posto e c'è uno che suona, a me piace tanto e mi fermo ad ascoltare, insomma, e devo essere sincero, capisco anche se si tratta di uno che ci sa fare, o uno invece che sta lì, insomma, giusto per starci. E ho ammirato sempre queste figure qui, perché comunque sono delle vere e proprie figure. Ma basti ricordare ad esempio che Laura Pausini è il padre di Laura Pausini. Laura Pausini ha iniziato proprio dal piano bar. Il padre di Laura Pausini era un musicista, sì, che faceva le serate nelle zone appunto della Riviera Romagnola, e la Pausini venne notata proprio lì, in quell'ambito. In questo Enzo ha una storia parallela che poi vi racconto dopo questo brano. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Ah. Questo ragazzo della via Glu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada io lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, wow, wow. Passano gli anni, ma otto sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Allora, è da sottolineare che l'assolo di chitarra è di Mauro De Federicis, uno dei più bravi, grandissimo amico che ha avuto l'onore di con cui ha avuto l'onore di collaborare in questo disco. CD. Sì. E, insomma, Mauro De Federicis è un chitarrista più che altro jazz, diciamo. Lui lavora molto, però insomma è anche lui molto aperto a qualsiasi tipo di collaborazione. Come si è potuto ascoltare, questo brano è stato completamente riarrangiato, anche l'introduzione e poi l'improvvisazione finale, veramente sì. È venuta una bella interpretazione Il ragazzo della via Gluck. Era il ragazzo della via Gluck, un brano, insomma, che mi piaceva da quando ero piccolissimo. È un brano, tra parentesi, che anticipa, vedete, questo è un brano che anticipa è uno dei più richiesti in assoluto nel piano bar, soprattutto quando abbiamo detto gli amici del nord Europa, sì, tedeschi, olandesi. È un brano conosciutissimo, ma è da dire che socialmente è un brano che anticipa un'ondata, tra virgolette, importante, che è quella dell'ambientalismo, un po' in qualche modo. E Adriano Celentano intuì per molto prima questa, sì, questa voglia di ambiente pulito, di pulizia, e quindi diciamo che è un qualcosa di importante anche. Spesso noi, ecco, sottovalutiamo, anche in questo caso si sottovalutano determinati fenomeni musicali o troppo velocemente si semplifica. Non è il caso, secondo me. Diceva, se non sbaglio, Marcello, che ci faceva i complimenti perché diamo spazio agli artisti locali. Questo è un nostro target, come si dice nelle migliori famiglie, è un nostro obiettivo, perché questa è una radio che deve servire il territorio, e quello che stiamo facendo è proprio cercare di far conoscere gente, situazioni, musicisti, poeti, scrittori che gravitano in questo ambito, perché naturalmente i grossi network non hanno una in particolare attenzione normalmente, quindi insomma per noi è importante far conoscere questi personaggi. E questa sera il personaggio della serata, in stretto antagonismo con Sanremo, e l'abbiamo fatto apposta, è Enzo dell'Asciuga. Stiamo stravolgendo, allora, gli ascolti. Enzo, c'hai qua una serie di saluti. C'è Cesare che ci saluta, c'è Sabrina. Ringraziamo. Questa è tutta clac, naturalmente. Mateus Aires dal Portogallo. Mateus Aires ci sta ascoltando dal Portogallo, che salutiamo. Uh-huh. Poi anche Isa che ci sta guardando. Però io dicevo che c'è una sorta di affinità tra te e il padre di... il padre della Pausini. L'affinità? Sì. Dici? In tutte e due siete pianisti di piano bar. Sì, ma non l'ho capito io. E adesso te lo spiego. E tutte e due, naturalmente, sì, hanno fatto muovere i primi passi ai propri figli. Ah. Ecco, allora, la Pausini ha mosso i primi passi musicalmente grazie al padre, ma Enzo è il padre di due bravissimi musicisti. Cesare che ci sta salutando, che ci sta guardando. Salutiamo un bravissimo, vabbè, Cesarino, diplomato in organo, ma diplomato anche in direzione d'orchestra, in composizione. E ultimo anno di direzione d'orchestra. Che sta facendo adesso? Si trova a Milano, studia ancora l'ultimo anno, però ha un po' di esperienze, le sta già facendo, quindi è uno. Il secondo invece, cantante lirico importante anche lui, una voce importantissima, che fa? È un tenore, ma che fa? Riccardo, spiega, dai, non fare studia all'Accademia della Scala di Milano. Ecco, allora vedete ragazzi, questa è intanto credo il risultato, oltre ai 30 anni di carriera, ma questi due sono i risultati migliori di Enzo. Sono due bravissimi ragazzi, ma due bravissimi musicisti soprattutto, che naturalmente hanno scelto questa strada perché il padre, non credo che li abbia forzati, no? Assolutamente, cioè, hanno no. Assorbito, assolutamente no. Hanno assorbito per conto loro, diciamo. E quindi, insomma, è un grossissimo risultato. Che dici? Non ne parli molto. Sì, ha ragione, sì, Concezzi, che sei modesto. Sì, dai. È un grossissimo risultato. Poi c'è la piccolina, vediamo un po', credo, che dici, come va la piccolina? Vedremo. La Laura Pausini della serata, della famiglia. Allora, torniamo a noi. Ci stiamo occupando, dicevo, di musicisti che lavorano solo. Quante serate fai su per giù? Tanto la finanza non ci ascolta. Dipende. La stagione. Il massimo che sono riuscito a fare sono oltre 200. In un anno? Sì. Cioè, 200 serate vuol dire che stai quasi sempre fuori la sera. Sì, però come ripeto, non è che le annate non sono tutte uguali, dipende. Ma a te che cosa piace? Cioè, c'hai una serata che ti piace di più? Dici, non so, stasera devo andarla, no, che palle, non ci vuole. No, oppure mi piace, dice, più questo, il genere di serata che non, appunto. No, nei posti dove vado no, mi trovo sempre benissimo. Però che genere il genere è più il piano bar, insomma. Ma quindi non c'hai più la musica d'ascolto che riesco a proporre quello che dico io alle persone, quindi al pubblico. Quindi più il concerto, diciamo, Sì. Quanto hai impiegato a fare sto disco che stiamo ascoltando stasera? Cioè, quanto lavoro c'è? Il lavoro c'è, bisogna preparare gli arrangiamenti, pensarlo bene, scegliere, sono tutte cover, quindi non è che sono brani composti da me, e devi fare una scelta dei brani, del progetto che vuoi fare, poi andare in registrazione, ma una settimana se riesce a fare con brave persone. Il mitico De Federicis è venuto in un giorno e ha fatto tutte le parti che toccava la chitarra, quindi io dicevo che questo è un prodotto, chiamiamolo così, culturale, interamente fatto qui dalle nostre parti, sia per quanto riguarda prodotto da te, tutto fatto da me, è inciso anche qui, sì, mixato qui, insomma. Voglio dire, questo fa bene a tutto il movimento, no? Ormai penso di sì. Perché io ricordo anni fa, tu sai benissimo, cantavo in un coro, per mixare un disco dovremmo arrivare a Livorno, insomma, dovremmo andare a espatriare, invece adesso i bravi professionisti sono anche qui. C'è da dire, uno di questi professionisti li inviteremo presto a Schegge, cioè sto parlando di Gianluigi Antonelli, che salutiamo, sicuramente sarà nascosto da qualche parte. Sì, lui prima o poi si farà sentire, perché non credo ami molto Sanremo. No, Gianluigi è uno di quelli, ad esempio, che lavora sia musicalmente, quindi un compositore, ma anche sulla capacità di registrare bene, di di fare sempre un buon prodotto. Che ci fai ascoltare? Adesso un brano famosissimo, che penso che a sax non ce ne siano tantissime versioni, perché non li hai sentito. Qualcosa ho sentito, però. E perché lo hai inserito dentro? Perché è una melodia bellissima che col sax tenore rende veramente molto bene. Vai. Questo brano ha fatto epoca. È vero che rende tanto col sax. Ma questo è un brano, come si soleva dire ai tempi, da pomicio. che col sax in effetti c'è. Questa era una colonna sonora, giusto? No. Non mi risulta. No, era un... La prossima. Ah, la prossima, la sì. Prossima, ma questa sì. Sorpresa. Je t'aime non plus. È vero? Questo fatto può essere che adesso mi sfugge. Però poi tu hai elevato tutte le vocine sotto, perché qui se io riarrangiare. Io mi ricordo, ero ragazzino, mi ricordo che c'era tutta una serie di voci sotto, eccetera, eccetera. E questa è una delle più richieste. Strumentale. Sì, piace. No, io stavo notando, oltre al sax, quindi tu suoni il sax in questo brano, sì. E le tastiere? Sì, tastiere. Quindi su più piste hai inciso, sì. E poi le hai mixate. Mentre Mauro De Federici suonava, credo dal suono io ho riconosciuto una Fender, sicuramente, una Fender Stratocaster. In quel brano lì, sì. Con l'improvvisazione, sì. Sì, bella. Complimenti ai giovanotti. E allora, devo dirlo, siamo su Radio Cerrano, sono le 21:22, minuti primi, questa è la mia trasmissione, torno in voce dopo tantissimi anni, sono tornato in voce, la cosa non può che farmi piacere, io ti ringrazio, è tutta scena, tutto mestiere. E dicevo... questo è Radio Cerrano e noi siamo in diretta Facebook in questo momento, ci potete ascoltare anche attraverso una serie di piattaforme. Io uso TuneIn ad esempio con cui mi trovo bene, ma c'è anche Radio Garden, c'è poi Listen to Me Radio. Queste sono delle app che potete scaricare attraverso le quali ci potete ascoltare. Stasera abbiamo un buon pubblico tramite Facebook, questo non può che farci piacere. Una cosa che devo ricordare è questa: Radio Cerrano è direttamente collegata al Parco Marino, Torre del Cerrano. Siamo, diciamo, un po' la voce del Parco Marino, musicalmente e non solo. Ed è un'accoppiata che ci rende orgogliosi, ci rende felici, perché essere legati all'unico parco marino del centro-sud e del centro-Italia ci fa veramente piacere. È un luogo bellissimo, per chi lo conosce sa di che cosa sto parlando, per chi non lo conosce io lo invito tutti a cliccare magari sul sito e magari a venirci a trovare, perché insomma è un bellissimo posto, sembra di non essere in Italia, dice qualcuno che è venuto. E poi ci troviamo in una posizione splendida. Io l'altro giorno, curando i rapporti, diciamo, curando la comunicazione del parco, ho avuto anche l'occasione di incontrare, di accompagnare una troupe televisiva tedesca, ad esempio. A parte, si sono occupati di noi Linea Blu, Linea Verde, Estate, ma una troupe tedesca che in mattinata ha sciato, ha fatto sci alpinismo e nel pomeriggio si è fatto il bagno, la troupe ha fatto il bagno sulle rive dell'Adriatico. Quindi insomma e il tema del programma sarebbe stato proprio questo: nel giro di una giornata puoi fare il bagno e poi sciare e poi andare a fare il bagno. E questa non è una forzatura, è quello che accade tutte le volte, tutti gli anni qui dalle nostre parti in Abruzzo. Dovremmo riuscire a sciare e nello stesso tempo si va in acqua. Sì, è vero, fare un trampolino magari dal Gran Sasso sarebbe il massimo. Però è anche vero che questa è la nostra forza, è la forza di questo territorio. Noi in pochissimo tempo, dicevo, io questa mattina ho avuto la fortuna di andare in bici, stavo a quasi 1000 metri e poi tornare a 5 minuti dal mare, cioè sono cose che di cui noi forse non ci rendiamo nemmeno conto, siamo troppo distratti da questo, da queste bellezze che ci circondano. E che dici, non le sappiamo nemmeno valorizzare. Andando in bicicletta comunque si riesce a Dipende. Ad apprezzare anche di se più. Sì, è vero. Questo è vero. Io, tu pensi che l'altro giorno sono salito fino a Pratoselva e poco prima di arrivare, no, sono arrivato in cima, poi mentre stavo tornando sotto un capriolo mi ha tagliato la strada. E io dicevo, all'inizio mi sono un po' spaventato perché mi è uscito fuori da... Però all'inizio dicevo, guarda che privilegio che abbiamo noi. Così come siamo stati privilegiati quest'estate che i delfini sono venuti a danzare di fronte alla Torre del Cerrano, le tartarughe arrivano fino alla spiaggia. Insomma, siamo veramente dei privilegiati, ce ne dobbiamo rendere conto e magari tendere di più alla tutela e alla salvaguardia. Allora, questo, famosissima dell'omonimo film, Emanuele, al sassofono Enzo Della Sciocca. Ma Enzo, ma tu comunque queste musiche un po', eh? Giustamente. Ma tu hai fatto mai il piano bar? No, ma hai ragione. Ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? È vero. Qui comunque parliamo di sax bar. Oh, qualcuno potrebbe dire anche sex bar. Vabbè, ma questa è una battutaccia. Allora, dobbiamo salutare Eric Meneghelli che ci sta ascoltando da dove? Da Rio de Janeiro. Anche Patrizia, Piera, Lorena. Lorena è una aficionada. Peccato che non abbiamo lo strumento, ne potevamo far ascoltare qualche canzone spagnola. Vedi? La prossima volta. Ci dovevi pensare, Enzo. La prossima volta. Cristina e anche Antonio, che sono quelli che ci stanno guardando, quelli che vediamo, insomma, che ci stanno guardando, perché in effetti poi le visualizzazioni sono di più. siamo arrivati sopra alle 1000 visualizzazioni, ci dicono, quindi stiamo veramente testa a testa con Sanremo. Con Sanremo. Peccato che non ci abbiamo la pubblicità di Sanremo noi, il rientro. E questa era, insomma, come si diceva una volta per quelli che facevano i DJ, un riempipista, un lentaccio, eh? E gli stranieri questa cosa mi sa che no, questo è internazionale, è uno Slow Fox. Sì, il questo gergo, poi è un film bellissimo, si presta anche al ballo, lo Slow Fox in coppia, bellissimo. Sì, sì, è vero, ma dicevo, sì, l'ho sentito infatti anche in qualche gara di ballo, come si dice, liscio. Sì, allora, sì. Andiamo avanti perché Enzo ha scelto un brano un po' ad hoc, insomma, come si suol dire, un brano del momento. Parlando di Sanremo. Appunto, parlando di Sanremo, hai scelto un brano, il prossimo sarà un brano di Tenco, giusto? Però ci volevamo dire due cose, vabbè, Carlo ha deciso di farlo partire. Le diciamo dopo. Hai ragione. Quando la sera tu ritorni a casa, non ho neanche la voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che rimane deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai che non sei finito, sai. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, che non sei finito, sai. Non so dirti com'è, quando, ma vedrai che cambierà. Ti devo fare i complimenti, questa è proprio bella, l'hai interpretata e arrangiata bene bene bene. Tu parlavi di tonalità, invece a me piace molto questa tonalità che hai scelto, molto intima. Parliamo di un artista che purtroppo, insomma, come sapete tutti, cioè Luigi Tenco, ha avuto il massimo della notorietà purtroppo col suo gesto compiuto a Sanremo. E questa canzone qui, Vedrai Vedrai, è una canzone che spesso viene erroneamente scambiata per una sorta di, non dico testamento, ma insomma che Tenco avrebbe fatto alla sua fidanzata francese, dai aiutatemi, Dalila, giusto? Ma invece no, questo è un brano che lui aveva scritto molto prima, e lo aveva scritto anche per dedicandolo alla madre, comunque pensando alla madre, che lo vedeva spesso rientrare in una certa maniera, e lui diceva proprio alla madre: vedrai che un giorno cambierà tutto questo e che magari arriverò al successo. Allora, Schegge, sono le 21:39 minuti primi, stiamo in compagnia di Enzo Della Sciucca, una Scheggia potente stasera. Non impazzita però. Non impazzita, le mie sono le Schegge impazzite. Siamo passati dai Genesis a Enzo, e questo non può che farci piacere. No, io volevo ricordare anche a quelli che ci stanno ascoltando, ai musicisti anche che ci stanno ascoltando e che ci hanno risposto, cioè sì, noi siamo aperti qui, quindi proponetemi qualsiasi cosa, io sono veramente disponibile a venire a stare insieme a voi, a fare anche promozione, insomma per noi della radio è fondamentale questo. Ve l'ho detto prima, lo ripeto, la nostra tra virgolette linea editoriale è proprio quella di dare spazio a chi magari tanto spazio non ce l'ha nei canali soliti, no? Nei cosiddetti network conosciuti. Quindi per noi va benissimo tutto. Marcello che propone le sue produzioni, ma lo stesso Carlo Bizzarri, che è uno di quelli, però ultimamente insomma non l'ho sentito, l'ho più visto che sentito. però tutti quelli che possono essere interessati a questo, per noi, ecco, Radio Cerrano è una porta aperta. Calcolate che comunque ormai siamo posizionati abbastanza bene, quindi è anche un qualcosa che vi può ritornare utile, tra virgolette. Tu che dici, Enzo? Sì. Tu come ci hai scoperti? Con Facebook. Allora, io voglio però tornare un po' più sul pezzo, come dicevano i giornalisti. Tu hai iniziato, hai detto, tanto tempo fa, iniziando con chitarra, fisarmonica e poi con un gruppetto, sei stato aiutato dalla famiglia oppure no? No, che significa? Non sei stato aiutato oppure non, nessuno? No, voglio dire, l'aiuto è relativo. Cioè, nessuno ti ha detto fai un lavoro serio? No, sono stato lasciato un po' libero di... Sei stato fortunato anche sì, questo. Penso di sì. Perché... Libero di assaporare... Sì. Io mi ricordo una volta, tanti anni fa, mio padre disse... papà, io vorrei fare l'attore, a fare l'accademia. E lui mi disse... sì, è una cosa bella... Ma poi che fai per mangiare? E invece no, vedi, i tuoi sono stati. Diciamo anche lungimiranti. Sono d'accordo. Tua moglie che dice? Mia moglie che dice? No, perché un marito che 200 sere all'anno sta fuori. Qui casca l'asino, non tocchiamo questo tasto perché altrimenti... Perché comunque sì, insomma, no, ma è un lavoro. Lei condivide appieno. È un lavoro usurante. Sì, ma condivide appieno lei. Gli orari quali sono? Gli orari non ci sono orari. Non ci sono orari. Ad esempio, io vedi, Enzo, una cosa che volevo dire. Io conosco un altro pianista, sì, un altro musicista che fa questo tipo di. Credo si chiami Ruggeri. Sì. Possibile, sì. Sì. E lui ad esempio si è inventata una cosa invece al mattino invece che la sera, in alcuni locali, in un locale ad esempio pasticceria, gelateria, una cosa del genere, lui suona di mattina dalle 10 a mezzogiorno, è una cosa che mi ha sorpreso, no? Perché uno, che ne so, vede sempre questo tipo di musicista lì da, insomma, dalle 10, sì, mezzanotte, è insolito. Sì, sì. Però la cosa, lo sai che funziona se il musicista, naturalmente, come dicevi tu, no, ma se il musicista, come dicevi tu, intuisce che tipo di musica, bisogna vedere il locale cosa promuove, cosa vuole fare, cosa vuole ottenere. Ma a te musica italiana soprattutto, oppure? Mi piace sia internazionale che italiana. Ma la domanda da 300 milioni di dollari, ma un musicista come te, sì, cosa ascolta per così, per diletto? Ma io ascolto tutto. Ma per diletto, cioè, diciamo, ma mi metto sto CD che... Sì, ma mi piace molto ascoltare, ascolto molto e per poi captare qualcosa che penso che riesce a trasmettere. Ok, ma Enzo Della Sciucca, spogliati dei tuoi abiti da musicista, non lo so, che ne so. Ma è difficile spogliarsi degli abiti da musicista. è difficilissimo. Hai ragione, questo perché è... l'orecchio del musicista che ascolta è diverso della... io anche quando andiamo in macchina che ascolto sono sempre attento, invece sì, questo è vero. Anche proprio quando in televisione, in radio. Questa cosa ve la posso confermare perché io e Enzo abbiamo ascoltato un concerto dal vivo vicini, eravamo proprio lì. E abbiamo commentato per tutta Ron, mi pare. Sì, abbiamo commentato per tutta la serata, è vero. Sì, ma è diverso perché. Ed è stato gustosissimo perché commentare un concerto dal vivo con un musicista, vi assicuro che è una bella esperienza. Anzi, poi mi ricordo che tu ti sei voltato. Sono stato di una compagnia allora. No, aspetta, mi ricordo che ti sei girato quasi alla fine e hai detto: ah, però guarda, qualcosa di musica, capisci? Questo non me lo ricordo. Me lo ricordo io. sì, ma purtroppo è vero, insomma, veniamo fuori da... Sì, la radio è stata la nostra palestra, questo te lo posso assicurare. Le radio sono state per noi la salvezza. Thank you. Queste sonorità ci riportano indietro un po' nel tempo, ma a me fanno venire... ho detto, mi piace spaziale, sì, ma a me fa venire in mente, sembra strano, un film di Pupi Avati, che ne so, perché lui usa questo, è, ricordiamolo, era il famoso Moulin Serenade di Glenn Miller, che naturalmente è un musicista dei primi anni del Novecento, ecco, diciamo così, anni 40-45, sì. E lui è famosissimo perché comunque aveva una famosissima orchestra, e questo è uno dei suoi brani più belli, e tu l'hai riarrangiato in questo sax, diciamo, tenore. Sax tenore, ma a parte il sax tenore, questo slow, sì. Molto... molto anche qui, che ti prende, io credo che ma un'altra cosa, quindi le tue serate, i ritmi sono sempre questi oppure ogni tanto aumenti, ma no, i giri? Come ho detto, aumentano anche i giri. Adesso stiamo proponendo il nostro CD Intensity, che più o meno porta questo adesso, come ho detto all'inizio, adesso capisco perché si chiama Intensity da poltrona. Adesso capisco, è da poltrona. Ascolta. Da poltrona, sì, ma questo si sta in due, nella poltrona è un po' pericoloso tutto sto Intensity. Va bene. Intanto vediamo qui sul palco di Sanremo che c'è la famosissima comica. Questa mi piace molto, come che si chiama? Hai visto che Gianluigi si è fatto sentire? Ah. Ho detto sicuramente lui. Ma pure Stefano Bizzarri, guarda qui, grande Stefano. I Bizzarri è un'altra dinastia di musicisti intoccabili, eh? E a noi ci piace ricordare queste dinastie teramane, abruzzesi, perché... può sembrare una forzatura, ma non lo è. Guardate che stiamo parlando di gente che ha fatto veramente la storia della musica, della nostra musica qui, di gente che suonava, che cantava, che ci ha messo l'anima, che veramente incredibile. Gianluigi, ecco, è presente, ti saluta, e naturalmente lo aspettiamo noi, Gianluigi. E mentre io volevo anche un po' rientrare un po' nel tema di questa serata. Io lo ricordo ancora, siamo insieme ad Enzo Della Sciucca. Enzo, ma ti vuoi fare un po' di pubblicità, no? Attraverso la tua pagina Facebook, dacci qualche riferimento, dove ti possiamo trovare? Su Facebook, anche su YouTube. Ah. E sì, quindi sì. E quindi se qualcuno ti vuole contattare, va lì e trova tutti i riferimenti. Esatto. Benissimo, questo insomma ci piace farlo a noi, pubblicizzare i nostri artisti. L'altro brano che hai scelto di Intensity. Eravamo sul tema un po' americano. Sì. Se... vuol partire il brano Magic Moment. Ah, questo mi piace. Ma anche questa era una colonna sonora? Sì, sì. È cantata? No. Anche cantata. Sì, ma questo... Io sempre col sax. Col sax. Stasera sì. Siamo da sax. È una sorpresa. Bene, bene, bene, bene. Allora, naturalmente Magic Moments è un brano che risale al 1957. Stiamo parlando di un grosso, insomma, di uno potente, cioè Burt Bacharach ne è l'autore. Ed è un brano che, pensate un po', segna una delle prime collaborazioni tra Burt Bacharach e Hal David, che sono, è il duo un po' che poi è andato avanti per diversi anni tra i più famosi della musica, di questo tipo di musica, non so se è un po' pop, però insomma, pensate, la canzone fu pubblicata nel 57 ed fu registrata in America da Perry Como. E con molta probabilità, perché le cose non sono chiare, è difficile capire un po' in quel periodo che livello, insomma, di popolarità avesse raggiunto, ma comunque sicuramente è stata nelle Billboard Hot 100 o 100, come dicono gli americani, tra le top 10, tra le prime 10, insomma un successo internazionale, se si considera poi il fatto anche che sfondò tantissimo anche in Europa, in Inghilterra, tra le 22 canzoni più vendute di sempre, insomma veramente un immortale, eh? È vero, Enzo? Sì. Per questo ce n'è un'altra. Ce n'è un... Adesso, visto che mi si stiamo un po' scaldando, stiamo nel tema americano, ho osato un po' sull'arrangiamento del prossimo brano, sono andato un po', come ho detto, usato un po', perché qui la voce era molto particolare, è Louis Armstrong, What a Wonderful World. Che dici? Però l'ho resa molto da piano bar. Allora ascoltiamocela. Ascoltiamola. Mm-hmm. questa è... si capisce che è la diretta, ha no? fatto apposta il regista, ha fatto lo scherzetto, fatto lo scherzetto. Dai, faccelo ascoltare Wonderful World. What a Wonderful World, Carlo. Poi ritorniamo su Elvis, Carlo, non... è un'altra famosissima di Carlo Elvis. Non farlo. I see them blue for me and you, and think to myself, what a wonderful world. I see skies so blue and clouds of white, the bright blessing day. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the face of people going by. I saw friends shaking hands, saying I do you too, genuinely saying I love you. I hear the best time I once now, till I met more than I ever knew. I think to myself, what a wonderful Era il 1967 quando... Sei aggiornatissimo. No, è Wikipedia. No, era il 1967 quando questo brano fu inciso da Louis Armstrong e vabbè, insomma, un successone internazionale. No, la cosa che è abbastanza interessante, credo sia questa, che è un brano che inizialmente ebbe un grossissimo successo soprattutto in Europa, quindi stiamo parlando dell'Europa del Nord, Danimarca, Svezia, Inghilterra soprattutto, sfondò tantissimo in Inghilterra. Ma la cosa che io ci tengo un po' a ribadire su questo brano che hai scelto e che hai inciso, ricordiamo, nel tuo CD Intensity, e quindi ti ringrazio per l'ottima scelta, tra parentesi, è che è un brano veramente che tu hai mi stavi dicendo l'ho alleggerita, lo sì, ma credo che il senso del brano anche nel testo sia proprio questo, cioè quello di dire ragazzi, la vita prendetela in questo modo, il testo dice proprio questo, cercate di godere dei piaceri della vita nel senso di dare forza a quelli che sono il vero significato della vita e quindi anche della nostra esistenza, quindi a mio avviso hai centrato in pieno l'obiettivo. Allora, siamo quasi alla fine, sono ormai le 22:03 minuti primi, Radio Cerrano in rigorosa diretta, lottando con i denti con Sanremo. Vabbè, noi ci scherziamo su sta cosa naturalmente, però visto l'appeal che abbiamo avuto questa sera, che sicuramente è merito di Enzo, Enzo è seguitissimo, è un riempipista, È un riempipista. ci sta bene. No, veramente abbiamo fatto un'ottima scelta, e uno scontro tra Davide e Golia, ma insomma non è che ci importi più di tanto. Poi tanto domani, dopodomani, per una settimana. Spero di aver, come dicevamo all'inizio, trasmesso. No, ci sei riuscito. Ma sai che cos'è? Qualche emozione. No, ci sei riuscito, ma sai che cos'è poi che mi. Io, e spero anche che noi siamo riusciti a far capire questo ai nostri ascoltatori. Cioè, è stato bello anche il dietro le quinte, nel senso che far scoprire un po' alla gente. Che cosa c'è dietro il tuo lavoro, come è venuto fuori, come è maturata in te questa idea, che sacrifici ci sono dietro, che mole di lavoro si sviluppa dietro queste cose. Insomma, io non credo che tutto questo fosse conosciuto. Quindi, Non tutti sanno. No, assolutamente. E quindi, insomma, poi lo dico sempre, il mestiere del musicista... un mestiere tosto, veramente un mestiere tosto. Allora, dicevo, siamo arrivati alla fine, Schegge sta per concludersi, c'è un altro brano, credo, no? Per chiudere. A sorpresa del nostro regista. Che facciamo, regista? Salutiamo alla fine di questo brano? Sì, con la testa ha fatto sì. Ci rivedremo presto. Sì, fra qualche secondo saluteremo tutti. Ma lui di notte ha imparato a suonare il sax, mi stavo dicendo. In sordina. Con la sordina dentro. In sordina. Poi quelli del palazzo magari si arrabbiavano, no, tu c'hai lo studio sotto, quindi non c'è problema. Sì, effettivamente, come dici tu, di notte. Allora, io adesso salutiamo. Ah, è stata una bella serata. Ti è piaciuto questa serata? Veramente mi sono divertito. Ah, un'ottima compagnia. Ah, anche degli amici bene, vicini e lontani. Allora, è bellissimo comunque sapere che... Sì, ma vedi come ci siamo, vedi Marcello, ci buona serata. Ci dobbiamo rivedere ancora. Sì, ma dai, siamo qui noi. Andiamo avanti. Credo che presto... Allora, la prossima volta... faremo tutto un altro genere. La prossima volta ti invitiamo a le più belle canzoni italiane nel nostro nuovo studio, perché noi siamo in procinto di trasferirci con un nuovo studio. Questo non lo lasceremo naturalmente, perché questa è storia, ma con lo studio a Torre Cerrano, quindi anche la vista insomma sarà credo migliore, e quindi ti inviteremo lì. Sarà un piacere. Invitiamo tutti quelli che hanno voglia di farsi conoscere, di contattarci, di contattare Carlo, il capo di tutti. Dicevo, Marcello ci saluta, buona serata e grazie della vostra compagnia. Adesso un po' di Sanremo ce lo possiamo guardare. Salutiamo tutti sì. Quelli che... Ma tanto Marcello, venerdì, sabato, questi sono sempre gli stessi, quindi insomma. Credo che domani sera ci siano gli stranieri, o stasera era? Non lo so. Eh? Salutiamo domani? Tutti quelli che ci domani. Hanno ascoltato, sì. Credito. Sì, sì, sì, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, salutiamo quelli che ci hanno solo guardato, salutiamo quelli di Instagram che ci hanno sì, che ci hanno fugacemente visto. E, insomma, è stata una bella serata anche per noi. No, stasera cover, bene, grazie. Io lo vedo Sanremo, ma non lo sento perché è impossibile per la nostra radio. E i nostri amici di Facebook ci aggiornano. Siete bravissimi. Fate la gioia di Carlo qui dietro, che ci stava dicendo: dopo 2 anni di lacrime e sangue, finalmente questa radio sta decollando. Ed è vero, insomma, stiamo decollando, credo, lo dicono i vostri ascolti. Qualcuno ci ferma pure per strada, insomma, non ci succedeva da tempo. Qualcuno ci dice che vuole venire a vedere, ascoltare, e noi siamo felicissimi. Siamo veramente felici, perché lo scopo è proprio quello. Noi questa radio, come dice sempre Carlo, non ci dobbiamo guadagnare nulla, e quindi lo facciamo perché ci piace e perché comunque cerchiamo di dar voce a tutti quelli che se lo meritano. Allora, questa sera siete stati in compagnia di Schegge Impazzite, presentate da me, Carlo. Ormai insomma si è capito che mi chiamo Carlo anch'io, ma per non accavallarmi all'altro Carlo. Ed è stato ospite con noi Enzo Della Sciucca, un musicista, pianista che fa 200 serate all'anno della serie Scusa se poco. E questo vi dà anche un po' il livello. Ecco, questo perché abbiamo fatto tutti questi ascolti, perché lui c'ha ormai un pubblico variegato. E l'appuntamento è per martedì sera torneremo con Mississippi Mood e il grande Vincenzo. Salutiamo anche Vincenzo che ci ascolta forse, e Vincenzo ha giurato che martedì porta la chitarra, quindi cominceremo pure musica dal vivo. La prossima volta ti porti il sassofono e facciamo qualcosa dal vivo. E la prossima volta, così poi abbiamo detto, il nostro regista cala di 3 kg invece di 2, perché poi gli vengono le crisi. Buonanotte a tutti e buon proseguimento. Alla prossima occasione. Alla prossima. Grazie Enzo, buona serata con ancora la musica di Radio Cerrano Web. Grazie, buonanotte.